Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute che parte puntuale alle 7:46 minuti, anticipando il Moved Groove. Già in diretta con noi Pietro Rossi, che saluto a distanza. Tra poco avremo anche lui nella diretta del martedì al Breakfast Club. Teatro, arte, lavoro, una dicotomia che ha portato la destra per cavalcare una divisione sempre più importante. Onore al merito a Kepler 452, che riporta nel mondo del lavoro Il Capitale di Karl Marx, un libro che ancora non abbiamo letto. Lo fa concretamente con le manifestazioni delle operaie e degli operai di GKN, di tante altre lavoratrici e lavoratori, portando in scena gli stessi esponenti del mondo operaio. E Dio sa solo quanto bisogno ci sia in questo momento di un testo fondamentale. Il lavoro sarà da questa sera, 23 gennaio al 4 febbraio, come ho detto, in sala Salmon all'Arena del Sole di Bologna. Fino al 4 febbraio, quindi, do alcune indicazioni: al martedì alle ore 19, il mercoledì alle 21:30, giovedì e venerdì alle ore 19, sabato alle 21:30 e domenica alle ore 18. Comunque trovate comodamente tutte le informazioni sul sito di Emilia Romagna Teatri, Teatro Arena del Sole. Enrico Baraldi a disposizione di Radio Città Fujiko per portare o riportare, perché è un lavoro che è già stato premiato per quanto riguarda l'importanza che vi ho descritto in precedenza, un lavoro che ha avuto una genesi ovviamente molto strutturata e molto impegnata. Ne ascoltiamo i percorsi dallo stesso Enrico Baraldi di Kepler 452. Allora, Il Capitale, diciamo, è stata una scelta piuttosto ambiziosa di un testo di partenza per un lavoro teatrale. Eravamo, diciamo, verso l'estate del 2021, c'era ancora in qualche modo una situazione post pandemica che influenzava moltissimo l'agenda quotidiana, delle discussioni, della politica, e ci sembrava un momento particolarmente rilevante per riprendere quel vecchio libro, quel vecchio tomo, quel primo tomo di tre libri lunghissimi che cerca di fare un'analisi molto molto dettagliata di quelle che sono le dinamiche del modo di produzione capitalistico, in una fase per l'appunto in cui il capitale, il capitalismo, il modo di produzione capitalistico sembrava in qualche modo messo un po' in crisi da questo evento che era la pandemia. E la scelta che abbiamo fatto io e Nicola era quella di cercare di indagare quel testo attraverso la realtà, cioè di metterlo a confronto con quello che stava succedendo nel mondo del lavoro in Italia, per vedere se c'erano ancora delle connessioni, se c'erano ancora delle possibilità di lettura del mondo del lavoro legate o tratte da quel testo. E quindi abbiamo cominciato a frequentare alcuni luoghi in cui evidentemente il modo di produzione in cui siamo immersi stava andando in crisi. Abbiamo fatto veramente tante ricerche, come facciamo di solito noi nella nostra pratica di lavoro teatrale, che insomma è quella di rivolgerci alla realtà, di cercare di raccontare la realtà per costruire degli spettacoli di teatro documentario. E quindi siamo finiti a seguire le vertenze dei lavoratori della logistica nell'area di Milano, siamo finiti a frequentare il mondo dei braccianti nell'agropontino, che erano in rivolta contro il caporalato, finché a un certo punto siamo incappati, il 18 di settembre del 2021, nella manifestazione degli operai GKN, che avevamo capito fin dall'inizio rappresentavano qualcosa di nuovo nel panorama delle lotte in Italia, ma che una volta che li abbiamo incontrati in quella manifestazione, una manifestazione impressionante a Firenze il 18 di settembre, ci ha rivelato qualcosa di unico e straordinario, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista umano, perché abbiamo incontrato questi operai alla guida di un corteo di 40.000 persone che lottavano non solo per difendere il proprio posto di lavoro, che in quel momento era minacciato dai licenziamenti della multinazionale, appunto GKN, che aveva licenziato in tronco tutti gli operatori e gli operai 422 della fabbrica, ma rivendicavano, diciamo, attraverso un discorso politico molto molto avanzato, una serie di istanze che non riguardavano soltanto i loro posti di lavoro, ma riguardavano quella che loro chiamano la famiglia allargata, che è la famiglia dei lavoratori, non solo metalmeccanici come loro, ma allargando veramente a tutto quello che è il lavoro salariato, che era un po' in qualche modo l'analisi di partenza di Marx rispetto al lavoro salariato. Way back in history, the prodigal son was a wealthy lad. He spent the share of wealth his father gave, spent every cent. Jobs Act, licenziamenti collettivi, un mondo del lavoro dove il precariato, la mancanza di sicurezza sta andando veramente a rotoli per quanto riguarda l'importanza di lavoratrici e lavoratori, il mondo della produzione che, come abbiamo visto e come purtroppo sta continuando a dare motivi di liberismo quanto più sfrenato e incontrollato. Grazie Kepler 452 per un importante avvicinamento fondamentale, quello del mondo intellettuale al mondo operaio, altra realtà che deve essere assolutamente in continuità, dove non riesce la politica, che a quanto pare è in gravissime difficoltà, riesca la cultura, riesca la conoscenza, riesca l'informazione e la presa di coscienza, la famosa coscienza per la lotta di classe, dal capitale di Karl Marx. Con Enrico Baraldi, la volontà Kepler 452 di rompere questa dicotomia che il sistema eversivo porta come arma, cioè allontanare, no, quella che è la cultura, l'aspetto intellettuale, a quello che è il mondo delle lavoratrici e lavoratori. Dividi et impera, dicevano i romani. A quanto pare, con la mancanza di una politica concreta progressista, tutto ciò sta riuscendo nell'intento nefasto di portare sempre più difficoltà all'interno del mondo operaio. Arriva in questo caso un lavoro che incontra e porta sul palcoscenico gli stessi lavoratori per dare una concretezza e per dare un'unità parallela, per arrivare, oltre che alla denuncia, a qualcosa di concreto. In questa seconda parte di conversazione con Enrico ascolteremo come è avvenuto e come appunto sarà strutturato questo spettacolo. Quello che poi è stato per noi sconvolgente è stato entrare nella fabbrica, presentarci al presidio degli operai e appunto presentarci come compagnia di teatro interessata a fare un lavoro che riflettesse sulla loro lotta, magari che partisse proprio da lì per aprire il discorso. E quindi, una volta arrivati al presidio, questo poi lo raccontiamo nello spettacolo, perché proprio lo spettacolo racconta del nostro arrivo al presidio, del nostro incontro con gli operai del collettivo di fabbrica ex GKN. Siamo per la prima volta, io e Nicola, entrati in una fabbrica, no? nel luogo della produzione. Noi, come dice Marx, appunto le attinenze si sprecano, noi siamo abituati a vivere nel mondo della circolazione delle merci, no? Nel mondo del mercato. Noi, diciamo, facendo un po' di autoanalisi, capendo che noi siamo dei artisti, diciamo di una classe sociale, una media borghesia, e che i luoghi della produzione noi non li vediamo mai, perché sono nascosti dalla società. Le fabbriche sono lontane dal centro, lungo le autostrade, sono tendenzialmente dei luoghi chiusi. Ed entrando nella fabbrica e andando insieme agli operai a vedere quelle macchine che loro stavano difendendo dalla fuoriuscita che appunto l'azienda voleva mettere in atto per svuotare quello stabilimento, lì ci siamo resi conto di tutta una serie di connessioni tra quel mondo del lavoro del 2021, insomma del ventunesimo secolo, che ancora rappresenta veramente un modello assolutamente leggibile attraverso quelle che sono le analisi di Marx, che noi insomma abbiamo cercato di seguire. È un libro molto difficile, siamo stati anche guidati da un nostro amico, collega, docente di filosofia che si chiama Giovanni Zanotti, che ci ha aiutato a tessere queste relazioni tra il capitale e questo mondo operaio che ci si stava dischiudendo, che avevamo la possibilità di vedere dall'interno nel momento in cui il capitale si era allontanato, in cui era stato sospeso. E quindi da lì nasce l'idea dello spettacolo del capitale, che dopo una serie di mesi vede, in cui noi abbiamo frequentato la fabbrica, abbiamo proprio vissuto insieme agli operai al loro presidio, a un certo punto abbiamo deciso di invitare quattro operai a prendere parte proprio allo spettacolo. Quindi ci sono in scena alla fine quattro ex dipendenti, anzi dipendenti della GKN, e Nicola come attore, e insieme raccontano di questo incontro tra noi, gli operai, la loro storia, la loro vertenza, e anche cercano di illuminare un pochino quella che è la cronaca della loro vicenda attraverso un materiale umano che è quello delle loro biografie. Quindi cerchiamo di indagare anche umanamente perché sono arrivati a essere quello che sono, quello che in qualche modo rappresentano, che rappresentano anche da un punto di vista politico. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione che ha presentato il Capitale dal 23 gennaio al 4 febbraio. Poi daremo anche gli orari più nel dettaglio e ti do appuntamento a un altro motivo di incontro, di studio e di approfondimento. Sai che seguiamo Kepler 452 e quindi teniamoci in contatto. Certo, io ti ringrazio, vi ringrazio e buona giornata. Sì, non voglio come sempre poi esagerare nel parlare di esperienze personali, anche perché poi ne vengo criticato, ma tant'è, sono stato per oltre 25 anni operaio dipendente per quanto riguarda il cantiere come elettricista, in seguito poi come facchino della logistica in una grande multinazionale di materiale elettrico. Ecco, le problematiche che ci sono e la dicotomia tra mondo culturale intellettuale e mondo operaio cavalcato dalle versione è molto forte, è tremendo, e rompere questo steccato è fondamentale, e non solo dare attenzione a delle particolarità che, nonostante la mia esperienza decennale, come ad esempio il fatto che determinati posti di lavoro sono lontani da quella che è una quotidianità, una vista, un percorso per cittadine e cittadini, sono messi da parte, sono più che altro vicino a grandi percorsi autostradali oppure sono sperduti in campagna. Questo è un altro motivo a cui bisogna dare attenzione, no? Per quello che è un allontanamento dal mondo e dagli aspetti più vicini invece alla vita reale, come un recinto, un ghetto se vogliamo. Purtroppo, come ho già detto, la mancanza di una politica per il lavoro assolutamente presente e concreta con i fatti ha dato modo che questa realtà sia stata e continua purtroppo a essere sfruttata. Questa è la parola giusta. Dal Capitale, un libro che ancora non abbiamo letto, la interpretazione di Kepler 452 e la vicinanza vera e propria con il mondo operaio, dal 23 gennaio al 4 febbraio alla ERT, Teatro Arena del Sole, Sala Salmon, martedì alle ore 19, mercoledì 21:30, giovedì e venerdì alle 19, sabato 21:30 1.30 e domenica alle ore 18. Il nostro Last Minute, al quale ho voluto dare uno spazio importante, termina qui. La formazione del Mood Groove è già pronta. Dopo la pubblicità alzeremo la palla 2. Vi invito a restare all'ascolto di Radio Città Fujiko per l'imprevedibile martedì dei 103.1. Subito dopo la pubblicità avremo il parquet del Mood Groove in diretta. A tra poco.